punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Vuoi partecipare al gioco Fai la tua manovra? Una tassa per i postini obesi? Uno sfoltimento dei bagnini fannulloni? Una stretta sui proprietari degli alani svizzeri? Scrivi ad Arcore, diventerai famoso anche tu. Cari ascoltatori di Punto e a Capo, un saluto da Gigi Donelli, da Valeria Bernardi in regia. Eccoci qua dunque, siamo nella fase del rientro, il mese di settembre, le scuole sono alle porte. Insomma, tornano i nostri appuntamenti consueti, torna naturalmente l'appuntamento con Punto a Capo, che è il vero e proprio punto della settimana, ma la settimana radiofonica raccontata da Radio 24. E noi abbiamo iniziato dunque con Dario Ceccarelli, con il suo graffio, per sintetizzare anche con ironia, ce lo consentirete, una settimana che invece è stata piuttosto vivace sul fronte della manovra, settimana che in realtà non si è affatto chiusa perché gli appuntamenti decisivi sono attesi per l'inizio della prossima. Estrema sintesi, carcere per gli evasori, pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi online, aumento dell'IRES per le società di comodo, stangata sulle agevolazioni delle cooperative, obbligo dello scontrino e della ricevuta fiscale per gli stabilimenti balneari, di questo magari parleremo più intensamente al ritorno della stagione balneare, ma questa è la sintesi degli emendamenti fiscali depositati giovedì dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti e dal relatore Antonio Azzolini, che varrebbero tra i 3,8 e i 4,6 miliardi di euro. Sparisce il contributo di solidarietà, tranne che per gli statali e per i parlamentari, mentre i maggiori proventi della Robin Hood Tax, la sovrattassa sulle società energetiche, andranno agli enti locali e non più per metà ad alleggerire i tagli ai ministeri. Restano invece intoccate finora le aliquote IVA. Dell'IVA. L'aula del Senato comunque è stata convocata da martedì prossimo e fino a sabato compreso per l'esame del testo della manovra. Questo naturalmente il tema principale, tra poco sentiremo commenti, voce, interviste. Direi che un altro grande capitolo, l'altro capitolo della settimana, è quello che riguarda invece la grande corsa verso la nuova Libia, un paese che è riuscito dopo una drammatica guerra civile a superare uno dei più lunghi regimi della storia contemporanea. Di fatto il colonnello Gheddafi avrebbe celebrato in questi giorni i 42 anni del suo regime, non fosse stato in fuga dagli uomini del CNT che controllano il paese. Ecco, in questi giorni gli incontri di Parigi, le riaperture di credito e di finanziamento al paese, sullo sfondo naturalmente la corsa. Quale corsa? Quella al petrolio da un lato, ma anche a tutta una serie di cantieri, iniziative che già si profilano nella ricostruzione di questo paese. Punto e a capo. La settimana della manovra economica è iniziata lunedì con il vertice di Arcore tra Berlusconi e Bossi, che nelle intenzioni doveva essere risolutivo. A metà settimana eravamo a fare i conti con la protesta sul fronte pensione, in particolare sul conteggio in termini di contributi figurativi dell'anno di servizio militare e sugli anni di contribuzione invece degli anni di studio universitario che si pagano salati. Ma insomma, la situazione raccontata mercoledì mattina da Vincenzo Miglietta. La manovra economica resta avvolta dall'incertezza. Gli emendamenti del governo infatti ancora non si vedono, attesi per ieri in commissione bilancio del Senato, dovrebbero arrivare oggi nel pomeriggio. Di sicuro nel testo mancherà il capitolo pensioni, almeno la parte relativa alla nullità del riscatto degli anni universitari e del militare. Su questo vi è stata una vera e propria retromarcia dell'esecutivo, sia per l'impatto negativo della norma sull'opinione pubblica e nei sindacati, che per i dubbi di costituzionalità sollevati da più parti. Di qui la frenata dopo un vertice al tesoro presenti anche i ministri Calderoli e Sacconi. La perdita del gettito di circa 1,5 miliardi verrà compensata, fanno notare comunque dalla maggioranza, da un aumento della lotta all'evasione fiscale con provvedimenti già allo studio. Questi dovrebbero

i saldi che non saranno toccati e che perciò ci porterà al pareggio di bilancio. Ma quello che fa questa opposizione, quello che fanno i giornali della sinistra è criminale nei confronti dell'Italia. Immediata la replica del leader dell'opposizione, allora sentiamo Enrico Bersani. Non si capisce nulla, si capisce credo una cosa sola, quella che diciamo da parecchio tempo, che purtroppo noi non abbiamo un governo in grado di guidare la barca in acque piuttosto difficili. E questo era il segretario del PD Enrico Bersani. Ma insomma, l'evasione fiscale è sicuramente uno dei costumi sociali italiani da estirpare. E da questa settimana Radio 24 ha iniziato un viaggio nelle storie di ordinaria evasione. Vi faccio sentire allora la presentazione del direttore di Radio 24 Fabio Tamburini, seguito subito dal primo servizio della serie curata da Valentino Furlanetto. L'evasione fiscale in Italia rappresenta una sorta di peccato originale, ma ora c'è una novità: non è più sostenibile perché la stretta della crisi economica rende insopportabile che le tasse vengano pagate quasi esclusivamente da lavoratori dipendenti e pensionati. Non è un caso che nei giorni scorsi siano intervenuti contro i furbetti delle tasse sia il capo dello Stato Giorgio Napolitano sia il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Lo scandalo deve finire, tanto più che nella manovra del governo viene proposta l'ennesima rapina nei confronti dei contribuenti onesti, quelli che pagano le tasse. L'hanno chiamato contributo di solidarietà, mentre è un'addizionale IRPEF che per i redditi più elevati porterebbe la pressione fiscale ben oltre il 50%. In realtà occorre fare l'esatto contrario, abbassare le aliquote e far pagare le tasse a tutti. Nell'attesa, Radio 24 a partire da oggi trasmetterà nei giornali radio di maggiore ascolto, quelli delle ore 8 e delle ore 13, una rubrica dedicata al paese sommerso, alle storie di ordinaria evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Un vero miracolo. In Italia circolano oltre 2 milioni e mezzo di auto con 2.000 cavalli di cilindrata, 100.000 barche da oltre 10 metri battenti tricolore. Siamo inoltre al quinto posto per vendite di BMW e al sesto per consumo di champagne. Eppure sono appena 72.000 gli italiani che dichiarano al fisco un reddito superiore ai 200.000 euro lordi, cioè circa 100.000 euro netti l'anno, su ben 41 milioni di contribuenti, lo 0,17%. Questo significa che ognuno di questi 72.000 super ricchi possiede oltre 32 belle auto e almeno una barca di lusso. I conti francamente non tornano e altrettanto francamente ci vorrebbe poco per farli tornare. Per esempio verificare chi sono i proprietari delle 100.000 imbarcazioni battenti tricolore e magari anche quelle attraccate nei porti con italiani a bordo e con bandiere di altri paesi. Coraggio, si può fare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Io sono stufo di vedere gente che dichiara dei redditi da fame, che ha una bella macchina, che si fa le vacanze 3 volte l'anno, che si fa la bella vita e alla fine fa il furbo e chi paga sono sempre i soliti. I comuni incasseranno il 100% di quanto recuperato dall'evasione. Gianluca Bonanno si è detto pronto a pubblicare i nomi degli evasori fiscali, a denunciarli pubblicamente e anzi, visto che lui è il sindaco, a metterli in piazza nella sua Varallo Sesia. Alla trasmissione poi è intervenuto Bruno Tinti, ospite di Alessandro Milan e Oscar Giannino. Questo accadeva nella mattina di giovedì. Bruno Tinti è stato docente di diritto penale commerciale all'Università del Piemonte Orientale, è stato presidente della commissione interministeriale per la riforma del diritto penale tributario, insomma un signore competente, sentiamolo. Si tratta della solita tattica, lancio il sasso ma nascondo la mano, perché lo devono fare i sindaci? Questa è una cosa che deve fare lo Stato. Sono molto contento di sentire quello che dice il sindaco di Varallo Sesia, sono contento della sua disponibilità, ma questo è un compito che spetta allo Stato. E comunque lei non ci... volontà dei sindaci. Lei comunque non ci vede nulla di male. Sarebbe una cosa del tutto incostituzionale lasciarla alla libera volontà dei singoli, perché non si vede perché l'evasore ladro di Varallo Sesia deve essere giustamente scoperto per iniziativa meritoria del sindaco di Varallo, mentre il sindaco di Canicattini di Sotto la pensa in un altro modo, e quindi lì prosperano gli evasori. Lei invece sarebbe per una pubblicazione trasparente di tutto da parte centrale dello Stato? Assolutamente evidente. Non tanto come dire, per ragioni etiche, per ragioni sociali, ma perché qualcuno dovrà pur capire che noi ci troviamo sull'orlo di un burrone. Non abbiamo più una lira, siamo a rischio di bancarotta e abbiamo un'evasione fiscale annua, dati del Ministero delle Finanze, dichiarazioni del 2010 relative ai redditi 2009, quindi gli ultimi dati disponibili, pari a 160 miliardi di euro. Ora, questa evasione annua è praticamente per intero, levate piccole somme, attribuibile al cosiddetto popolo della partita IVA. Perché? Perché evidentemente i dipendenti e i pensionati hanno la ritenuta alla fonte. E però si deve discutere se è questo. Dica al dottor Tinti che fanno il doppio lavoro, evadono pure. Dica al dottor. Sì, lo so che fanno il doppio lavoro. Allora però non diciamo sciocchezze. Sciocchezze non le diciamo, dottor Tinti. Non le diciamo le sciocchezze, evadono in tutte le categorie. Guarda questo signore come aggressivo. Sono aggressivo perché lei divide gli italiani, i poveri lavoratori dipendenti, vittime, una solfa da chi ha applicato la legge, pretendo precisione. I dipendenti e pensionati costituiscono, dati sempre del Ministero delle Finanze, l'88% dei contribuenti che presentano la dichiarazione, cioè su 41 milioni e mezzo di contribuenti, i dipendenti e i pensionati sono la stragrande maggioranza. Però Tinti, bisogna capire se... No, non sono la stragrande maggioranza, sono quasi la totalità. È quasi la totalità, vabbè. E a loro, questa è la cosa più importante, si deve, pensi un po', il 93% di quello che lo Stato ricava, cioè il gettito fiscale... Sì. Che è di 146 miliardi, lo pagano i dipendenti per il 93%. Punto e a capo. Il governo tedesco è fiducioso del fatto che l'Italia manterrà i suoi impegni in termini di misure di risparmio. Lo ha detto a Berlino il portavoce della Cancelleria, Steffen Seiber, durante un briefing con la stampa. Una delle lezioni della crisi finanziaria e debitoria è che bisogna essere affidabili e far seguire fatti alle parole, ha aggiunto. In merito alle numerose modifiche apportate alla manovra, il portavoce ha detto che Berlino ha preso conoscenza delle notizie più recenti, ma che conferma la piena fiducia nel governo italiano, che sarà senz'altro in grado di mettere a punto misure tali da rispettare il volume di risparmi previsti e quindi anche i conseguenti effetti sul bilancio. E nel grande calderone della manovra finiscono anche i calciatori, che attendono di scendere in campo dopo uno sciopero alquanto impopolare, difficile da spiegare in un momento in cui il ricco diventa una categoria sociale e magari si fa fatica involontariamente o meno a fare la differenza tra chi ha fatto una bella carriera, guadagna molto e paga il giusto, e chi invece accumula privilegi e le tasse le paga poco, male o magari proprio per niente. Ma insomma, nel pieno della settimana il ministro della Lega Calderoli annuncia emendamenti alla finanziaria e chiede una tassa dedicata, mirata proprio ai calciatori, che ha il sapore di una bastonata per ricchi viziati. Risposta molto pacata del milanista, anzi juventino, già milanista per 10 anni, Andrea Pirlo, che dice: non sarebbe un problema, abbiamo sempre pagato, l'importante è andare a prendere quelli che non pagano. Martedì Alessandro Milan e Matteo Salvini, sentite. Salvini, che c'ha Calderoli lei che lo conosce, nei confronti del mondo del calcio. Ha detto ieri: sono mefistofelico, non ce la faranno a non pagare doppio i calciatori. No, non conosco le passioni calcistiche di Calderoli e quando ci parliamo di altro, perché sì, gli italiani non passano da centrocampo evidentemente. Però ripeto, quello io curiosavo sui blog, sul sito di Radio 24, sul blog di Oliviero Bea, del Fatto Quotidiano, e non è Calderoli, è il 98% di chi legge, di chi ascolta, ritiene che in un momento come questo tutti, calciatori compresi, siano chiamati a fare la loro parte, perché mi risulta che la media degli stipendi, ripeto, non degli Ibrahimovic, ma della Serie B e anche della Serie C, ci siano stipendi che superano i 200 o 300 mila euro in Serie C. Ma alcuni, però Tommasi invece ci sta dando uno spaccato, diciamo, del mondo del calcio diverso. Il calciatore medio di Lega Pro prende sicuramente più di un medico che sta lavorando e sta operando in questo momento. Quindi è chiaro che un certo tipo di posizione, se la prende un medico, se sciopera il medico o un certo tipo di considerazione, siamo tutti lavoratori, anche i lavoratori sono calciatori indubbiamente. Scioperare da parte di un calciatore, diciamo che mette sicuramente da fastidio. Sentiamo Francesco da Caserta, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo intervenire innanzitutto dicendo che a mio parere il fatto il calciatore in rapporto con le proprie società è un fatto privatistico, sì, cioè, nel senso non può essere governato dallo Stato se non con l'imposizione, con le tasse, ma in questo caso non discriminando uno che fa il calciatore rispetto ad altri. Non lo è invece privato il debito pubblico che ci hanno lasciato e il fatto che chi l'abbia generato abbia dei privilegi così assurdi. Per cui mi sembra strano che proprio in un momento in cui tutte queste difficoltà e tutti questi ragionamenti sulla manovra, uno pensi al calcio e sposti l'attenzione sul calcio, prova ne è che noi oggi stiamo parlando di calcio e non di manovra. Sì, beh, è un aspetto della manovra, eh. La manovra ne parliamo, guardi, a Radio 24, tra poco Giannino parla delle pensioni, Deborah Rosciani parla delle pensioni alle 12, ne parliamo 24 ore su 24, questo è un aspetto della manovra questo, guardi, Francesco, perché sì, l'emendamento... Sì, ma è guidato da chi vuole spostare l'attenzione del pubblico da problemi seri a problemi che non esistono, ecco, a mio parere. Ecco, questo lei dice... E noi invece scivoliamo in direzione opposta, quindi dalla manovra al calcio giocato, si fa per dire, in attesa di essere giocato, che nella tregua degli incontri appunto per la nazionale che ha giocato ieri, per la qualificazione agli europei, cerca di ricomporre l'albo delle figurine. Carlo Genta ci spiega come. Se la condanna allo sciopero arriva anche da Blatter, è sbagliato, il calcio professionistico deve avere rispetto, ha detto l'imperatore svizzero, e se lo dice lui siamo a cavallo. Motivi in più per stare in riserva dalla parte di Tommasi. Comunque nel cono d'ombra dei giorni delle nazionali si va consumando una tregua che poteva essere siglata in extremis anche venerdì scorso, perché ad anno fatto la Lega ha finito per raccogliere la proposta calciata in zona Cesarini da Damiano Tommasi, contratto ponte fino al giugno 2012. Sull'articolo 7, quello che riguarda fuori rosa e organizzazione degli allenamenti, la soluzione dei presidenti prevede un confronto tra le parti da sviluppare in 30 giorni dalla firma. E Beretta ha parlato anche di commissione mista per le riforme. Insomma, firmiamo, giochiamo e poi parliamo, evitando la marcia su Roma degli avvocati di Sky e Mediaset. Tommasi si è preso un paio di giorni per la risposta, ma la questione è ormai solo formale. Poi verrà versato l'inchiostro sul contratto. La stagione è macchiata, ma il 9 settembre, venerdì dell'anticipo degli anticipi, Milan-Lazio, non ci farà caso più nessuno. Carlo Genta lo ritrovate questo pomeriggio dalle 17. Punto e a capo. Tripoli è libera, i combattenti possono tornare nelle loro città. Il Consiglio Nazionale di Transizione Libico, l'ormai noto CNT, ha dunque invitato i combattenti a lasciare la capitale Tripoli, a rientrare nei loro luoghi di origine. Questo è l'ultimo comunicato al termine di una settimana decisiva sul fronte libico. Ecco, decisiva sul terreno, anche se come sappiamo ci sono ancora alcuni capitoli importanti da chiudere, decisiva anche per quello che è accaduto in Europa, in particolare a Parigi, dove la riunione per la Libia convocata da Sarkozy, che è stato il primo sostenitore dell'azione militare occidentale in Libia, ha raccolto i capi di Stato e di Governo, i nuovi potenti, così possiamo dire, anche se con un termine facile, della Libia attuale. Si è parlato di soldi, di affari, di futuro, e direi che questo commento di Alberto Negri sintetizza un po' la situazione attuale. Ci sono due facce della Libia. Una è quella esterna, che sotto braccio al suo sponsor, il presidente francese Sarkozy, ha sfilato ieri a Parigi davanti a 60 nazioni, ottenendo lo scongelamento di 15 miliardi di dollari di fondi esteri. L'altra è la Libia interna, con Gheddafi minaccioso e ancora latitante, dove la paura non è finita e grande l'incertezza sul futuro. Questo incontro sulla ricostruzione della Libia è stato positivo e soprattutto venato di grande ottimismo, ma ovviamente si fa di tutto per partecipare alla corsa al petrolio e al gas della Libia. E l'Italia difende le sue posizioni con una rincorsa a volte affannosa. Berlusconi scongela 500 milioni di euro di fondi libici e annuncia che il 15 ottobre verrà riaperto il Green Stream, il gasdotto sottomarino, vero cordone ombelicale che unisce i due paesi. Se finisce quella sul campo, la battaglia del business può cominciare. Da Parigi, niente baci alla francese, ma miliardi di euro nero. Torneremo a parlare di Libia, in particolare della crisi sanitaria che tocca evidentemente il paese al termine di 5 mesi di guerra. Tra i nostri ospiti vi segnalo il commissario dell'Unione Europea alle azioni umanitarie, Kristalina Georgieva, commissario bulgaro. Tutto questo va a 30 minuti in cronaca dalle 19:30 questa sera. Punto e a capo. E alla fine della prossima settimana cade invece il decennale dell'11 settembre. Ovviamente Radio 24 avrà l'occasione per ricordare con voi quanto accaduto, e già vi anticipo tra l'altro due bellissimi reportage dedicati alla memoria di chi è stato involontario, testimone, vittima della tragedia. Ma insomma, gli anniversari servono soprattutto per riflettere su come sono cambiati gli Stati Uniti in questi anni, su come siamo cambiati noi e la visione del mondo e di alcune crisi, di alcuni drammi, come appunto quello dell'11 settembre. Intanto sul fronte della cronaca cresce la vigilanza, la parola d'ordine è quella di non sottovalutare i pericoli, anche quando riguardano delle celebrazioni. 10 anni dopo, negli Stati Uniti l'allerta è massima e la parola d'ordine è chiara: non sottovalutare nulla. Allora, invece, in quell'11 settembre che cambiò le sorti del mondo, troppe cose non funzionarono o restarono segrete, come quella che ora torna a mettere sotto accusa la CIA. 18 mesi prima dell'attacco alle Torri Gemelle, l'intelligence era infatti già sulle tracce di due dei futuri attentatori, ma nulla disse all'FBI. Mais nous sommes parvenus à en comprendre les causes. A rivelarlo è direttamente l'ex capo dell'antiterrorismo Richard Clarke, intervistato per un documentario trasmesso ieri da Arte, il canale culturale di servizio pubblico franco-tedesco. Tra gli autori Fabrizio Calvi. Richard Clarke dice che 50 persone della CIA, lui era pazzo dal furore quando ha scoperto questo di recente, che queste 50 persone, incluso il direttore, sapevano della presenza di questi negli Stati Uniti, non li hanno informato a lui. Sapevano anche che stavano forse progettando un attentato? Non si può dire questo. Quello che invece viene ricostruito sono le informazioni che la CIA aveva su Khaled al-Midar e Nawaf al-Amsi, due dei 19 attentatori dell'11 settembre. Si scopre che furono seguiti, si ricostruiscono summit e proclami e si stabilisce che gli americani sapevano che i due sauditi erano già negli States. Ma perché la CIA non parlò? Questo nessuno lo spiega. Di sicuro però ora l'attuale intelligence vuole evitare ogni sbavatura, mentre gli ex parlano per giustificare le falle di 10 anni fa. Raffaella Calandra, Radio 24, sulle 24 ore. Punto e a capo. E ora dichiaro ufficialmente aperta la 68esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. E così, con l'annuncio di Vittoria Puccini, la macchina di Venezia 68 è partita. È partita con gli applausi per il film di apertura, Lady di Marzo, diretto e interpretato da George Clooney. Un film che parla di macchina del fango, di scandali che riguardano i politici, di scandali sessuali. Non l'ho considerato un film politico, ma certamente un film personale. È un film sulla questione morale, ha spiegato Clooney. E se sei disposto a vendere l'anima per un risultato? Chissà cosa sarebbero disposti a vendere per un risultato dalla Biennale. Chissà cosa sarebbero disposti a vendere per riavere magicamente un vero palazzo del cinema. Quest'anno il ministro dei beni culturali almeno c'è dopo il boicottaggio di Bondi. Galan dice: da ministro trovo che si gettino via i soldi dei cittadini e non si può proseguire sulla strada intrapresa. L'importante adesso è come far sì che non sia stato speso invano fin qui il denaro. Ed eccola qua, Marta Cagnola ci raggiunge in studio questa mattina. Abbiamo intanto raggiunto il giorno 4, se non sbaglio, del Festival di Venezia. Ora si va fino a sabato, come di consueto. Marta, com'è stata la partenza? Ma è stata una partenza caratterizzata dai big americani, non a caso, perché, come dicevamo, come abbiamo detto spesso in questi giorni e come purtroppo ci tocca ripetere da tempo, a Venezia non c'è un palazzo del cinema, non ci sono gli spazi per fare il cosiddetto mercato, quindi gli incontri di business. Allora, gli americani arrivano presto, se ne vanno subito, vanno a Toronto, dove c'è un festival del cinema nel quale si fanno anche affari. Quindi l'Italia, almeno a Venezia, perde questa grossa occasione, ma tant'è, non c'è questa tradizione e non ci sono al momento, come sentivamo, neanche gli spazi. Ma io che non conosco questo mondo, cioè vuoi dire che Venezia di fatto glamour, copertina di tutto il mondo, perché certo che comunque George Clooney voglio vedere sullo sfondo di Toronto, che peraltro è una bella città, ma un conto è averlo a Venezia, un conto là. Però di fatto gli affari, anche quelli che riguardano un po' il cinema internazionale che vediamo a Venezia, si fanno altrove? Ai noi sì, e Toronto ha proprio questa specificità. C'è anche da dire che causa crisi gli americani ormai spendono molto poco, non sono disposti a spostarsi in massa per comprare e vendere diritti in Europa, e quindi è meglio farlo a Toronto, in Canada, è più vicino, insomma tutto succede lì. Si fa molto molto poco a Venezia, qualcosina si fa a Roma con The Business Street, ma l'Italia, che da tanti anni aveva perso il MIF, e da Milano sul mercato, ahi noi, ormai è un po' sfavorita. Insomma, partiamo dal mercato, ma magari scivoliamo, almeno io ci proverei a parlare invece di sogni, che sono poi quelli del cinema, celluloide o digitale non cambia, e cioè del cinema delle star. Queste sono giornate che hanno già segnato. Abbiamo citato Clooney, Kate Winslet che è arrivata. Io ho un debole per Kate Winslet, trovo che sia una formidabile attrice da giovanissima, come dire, magari sottovalutata su certi film. Poi l'ho vista in un ruolo di capo, l'ho vista in ruoli forti e belli, e poi naturalmente Madonna. Insomma, le star ci sono ancora, almeno a Venezia. Le star ci sono ancora, Madonna ha veramente fatto furore. Chi l'ha vista da molto vicino dice che dimostra tutti i suoi 53 anni, e questa è un complimento. E questo è un complimento, perché? Sì, non si è rifatta totalmente. Oh. Ha proprio riportato quel glamour, quella voglia di divismo, che è un po' la cifra stilistica di Venezia, l'arrivo delle star al Molo del Lido. Ecco, Madonna ha creato tutto questo. Non so nella seconda settimana del festival se ci potranno essere altrettanti momenti di divismo. Un po' di curiosità l'ha provocata anche la nostra Monica Bellucci. Anche perché Monica ha concesso in questo film, in concorso, diciamo, parecchi centimetri di pelle. Sì, che mi sembra anche un po' questo un tema ricorrente, no? Cioè questi scandali attesi delle pelle delle dive, che poi, se non sbaglio, parecchi colleghi hanno parlato un po' del flop, nel senso che... Non bisogna mai aspettarci troppo, infatti, ecco. Sono sempre degli elementi forse anche un po' così divertenti, ma per certi versi anche un po' surreali del cinema, perché la grande attesa del nudo integrale come fossimo nell'Ottocento, ma va bene. Parliamo un momento, Bellucci, senz'altro. Abbiamo sentito un'emozionata attrice, giovane attrice italiana, aprire la manifestazione. Come siamo messi quest'anno? Io mi riferisco al cinema italiano. Allora, il cinema italiano offre alcune cose assolutamente da non perdere, alcuni italiani in gara. Abbiamo, guarda, mi sono fatta l'elenco perché ho sempre paura di dimenticare qualcuno. Beh, insomma, intanto il primo a passare il Lido, Terraferma, è il film molto atteso Paradiso di Emanuele Crialese, il dramma dei migranti, cioè un giovanissimo che abita da sempre in un'isola. Sua madre vorrebbe che lui lasciasse quest'isola per approdare verso la terraferma e un futuro più sicuro. La stessa storia è quella di una madre che scappa dall'Africa orientale in cerca di un futuro per i figli e approda su quella stessa isola. Quindi il dramma dell'immigrazione tra favola e realtà. Poi ci sarà Cristina Comencini con Quando la notte, ed è il film tratto dal suo romanzo che è stato pubblicato da Feltrinelli, nel cast Filippo Timi e Claudia Pandolfi. Peraltro Filippo Timi protagonista anche di Ruggine di Daniele Gaglianone, che sarà invece nelle Giornate degli autori. E poi l'ultimo, molto atteso, L'ultimo terrestre di Gipi, debutto al cinema di un fumettista famosissimo e debutto al cinema anche di Giuseppe Cruciani, io ve lo dico. Solo in audio, ma ci sarà anche lui. Come solo in audio, non per vi cui posso davvero svelare niente. Radiofonico, resteremo in attesa quando, quindi dobbiamo attendere tutta la settimana per vedere come la Zanzara sarà in versione Venezia. Aspetteremo. Senti, ancora una cosa, Marta. Sabato, naturalmente, come di consueto, no? Si decide il vincitore. Si sa già, in questi festival, quando si arriva verso venerdì, anzi, quando si arriva dopo il sabato, tutti dicono: era chiaro. Siamo di nuovo in questa possibilità? O... Allora, ci sono, per ora ancora no. Ti svelo il segreto dei giornalisti: è quello di cominciare il sabato mattina o il venerdì sera a tempestare di telefonate gli uffici stampa per sapere se qualcuno ha ripreso l'aereo, perché da lì si capisce, ovviamente. Chiaro, chi se ne va normalmente non è interessato alla premiazione. E quindi si cerca di capire se c'è qualche biglietto aereo, qualche autista che sta andando all'aeroporto per andare a prendere e qualche si fa star. La spunta, sì, e poi si arriva così alla risposta. Ecco, è prematuro, immagino, parlare di candidati alla vittoria. C'è qualche, diciamo, voce di un film che emerge nella... Per ora molto applaudito il film di Roman Polanski, questo Carnage, tratto da una pièce teatrale con appunto Kate Winslet. Non l'ho fatto apposta, ma siamo tornati a lei. Una pièce teatrale dal finale molto drammatico. Lui ha deciso di non conservare lo stesso finale e, d'accordo con l'autrice della pièce teatrale, il finale è molto più positivo, perché lui ha deciso che ci deve essere un finale positivo e che dia speranza ai giovani. Lui ovviamente a Venezia non c'era. No, per ragioni che adesso non possiamo ricordare, è una storia complessa, ne abbiamo parlato tante volte. Grazie a Marta Cagnola, una battuta, ritorno, diciamo, del mese di settembre, anche ripartenza a pieno regime dell'appuntamento quotidiano con la cultura, con gli spettacoli, ogni mattina su Radio ogni mattina appena dopo le 8:15. Il GR Spettacoli questa settimana si trasferirà anche a Venezia. A un certo punto cominceremo con i nostri reportage da Venezia, quindi massima attenzione alla Mostra del Cinema, che è la grande notizia della settimana. E poi da lì in poi, sempre attorno alle 8:15, poco dopo le 8:15, il GR Spettacoli di Radio 24. Grazie Marta, buon lavoro, e noi voltiamo pagina. Punto e a capo. E il settimo si riposò. Il riposo del guerriero, il rotocalco domenicale di Radio 24 che fa riposare il corpo, non la mente. E che fa giocare con il mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro da spendere in libri su libreriarizzoli.it. E questo è il primo indizio. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Il riposo del guerriero, ogni domenica alle 10, con Stefano Gallarini. Su Radio 24. La passione si sente. Eccolo qua, promemoria per domattina 24 ore quasi precise, alle 10 naturalmente, Stefano Gallarini. Noi abbiamo anticipato dunque un indizio per giocare con noi. Vi segnalo anche che nel corso della trasmissione. I temi toccati sono molti come di consueti, ma uno è anche, credo, curioso, interessante, in fondo qualcosa che ci tocca sempre, cioè come ci giudicano all'estero. Vincono ancora i luoghi comuni sugli italiani, oppure anche su quel fronte il tempo passa e magari certe valutazioni si aggiornano. Vedremo, l'appuntamento dunque è per domani. Noi con questa segnalazione siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento settimanale. Tra qualche istante tutti gli aggiornamenti con GR24. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione, per essere stati con noi questa mattina, ringraziare Valeria Bernardi in regia, ricordarvi che questi contenuti, come tutti quelli di Radio 24, potete sentirli, risentirli su www.radio24.it. Allora, un ottimo fine settimana a tutti voi. Da parte mia, l'appuntamento con Punto e a Capo è per la prossima settimana. A presto!